Non sono mai stato bravo a litigare e nemmeno a fare pace. Credo che abbia a che fare con il coraggio. Cioè, bisogna avere coraggio per stare in piedi di fronte ad una persona a cui stai dicendo una serie di cose violente, irrispettose, magari vigliacche. E bisogna averne forse di più per chiedere scusa. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:06, questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. È strano, no? Come quando si parli di riappacificazione, si pensa subito a una lite di coppia. Come se il matrimonio o il fidanzamento fossero il campo di battaglia più frequente su cui si combatte, e quindi quello dopo il quale è necessario fare pace. Di solito il modo per fare pace in questi casi è il più semplice, il più scontato che tutti noi conosciamo, e quindi non è nemmeno il caso di tornarci su. Però la necessità di riappacificarsi riguarda molti altri campi, molti altri rapporti, a volte molto più complicati. Che so io, chiudere una discussione con un collega, o con un fornitore, o con un cliente, fare pace con un vicino di casa, con un compagno di calcetto dopo un'entrata assassina, o anche dopo un automobilista, dopo un insulto al semaforo, ma soprattutto cose tipo fare pace con un amico con cui improvvisamente si era smesso di parlare. Ecco, tutte queste situazioni presuppongono metodi di riappacificazione molto diversi tra loro. E quindi c'è chi usa una strategia ben precisa, c'è chi improvvisa, c'è chi non ha mai fatto pace in vita sua e quindi è impacciato, c'è chi invece è esperto e ormai ha un metodo preciso per ogni situazione. Ho sentito persone che hanno portato i genitori in crociera per risolvere una questione lunga anni. Ho sentito professionisti che hanno regalato automobili, hanno regalato benefit come se piovessero per ricucire strappi con i loro colleghi. Poi di solito la cosa più semplice è quella che funziona sempre di più, cioè sedersi a un tavolo e parlare con serenità di quello che è successo. Perché ci si è comportati in un modo, oppure perché si è reagito in un altro. Il mio amico Tex ha fatto pace con la sua fidanzata in un posto sul lago di Como che si chiama Domaso, e da quel giorno lui scherza sul fatto che tra lui e lei ci siano ormai dei patti molto chiari, sottoscritti in quello che lui chiama il Trattato di Domaso. Se qualcuno di voi che sta ascoltando in questo momento ha fatto cose tipo affittare un intero albergo, se avete costruito case, se avete attraversato oceani, scritto libri, composto canzoni o anche solo fatto un regalo inaspettato per fare pace e oggi volete raccontarmelo, io sono qui. Sono le 16:08, questa è Radio 24. Questi invece sono alcuni dei trattati di pace, non quelli, non i trattati di Domaso, ovviamente, ma un pochettino più famosi. Il trattato di Adrianopoli, 1568, trattato dell'Aia, 1720, di Anagni, di Ankara, di Aquisgrana, di Belgrado, trattato di Benevento, di Bronsboro, di Limerick, non me li sono stampati tutti in fila, no. Trattato di Lione, di Losanna, di Madrid, di Mantes, di Mignano, di Nanchino, trattato di Novgorod, Novgorod, trattato di Nöteborg, trattato di Rapallo, di San Germano, di Siviglia, di Stettino. 800 24 00 24 per chiamare in diretta, oppure 349 238 6666 per mandarmi un messaggio e raccontarmi qual è stato il modo in cui avete risolto una questione che magari era da un giorno, magari era da un anno o da 10 che non riuscivate a risolvere. Un modo semplice in cui avete fatto pace, che parole avete utilizzato, che cosa vi siete inventati, se era il caso di inventarsi qualcosa, visto che mi è successo così esattamente stamattina con il mio ospite, l'ospite inatteso, quello che ormai tutti conoscete con il nome di Samir. Elena mi scrive, ad esempio: con un'amica, dopo una non lite, questa devo dire che capita spesso, molti mi hanno scritto che a un certo punto capita che non ti parli più con un tuo amico, in particolar modo con gli amici, passano degli anni e poi a un certo punto succede qualcosa. Dopo una non lite abbiamo fatto una non pace, è stato buffo, a un certo punto ci siamo viste e invece di ignorarci come al solito ci siamo messe a parlare. Giulia: io ho fatto pace con la mia migliore amica dopo più di un anno perché dovevo dirle che aspettavo un bambino, e questa è facile, però insomma, donna incinta fa sempre un po' tenerezza. Paola si presenta a sorpresa, che si parla di lui, ovviamente. Dopo giorni di insulti, barricate e silenzi pieni di rancore. Ed è il momento peggiore, perché tu vorresti essere impeccabile, algida, bella, e invece stai trangugiando in piedi un orrendo takeaway cinese mentre guardi un imbarazzante programma alla TV. Ovviamente dopo una giornataccia. E a me è venuto da ridere, quindi la rabbia, il rancore, le mie ragioni, i suoi torti, ero solo immensamente felice. E ancora non smetto di ridere ed ero contento di vederla. 800 24 00 24. Se invece che capitarvi per caso, appunto, come state guardando un orribile programma alla televisione e ritorna la persona che avete, con cui avete litigato, se invece vi siete siete inventati qualcosa per fare pace. Oggi è la puntata giusta per raccontarlo. 349-238-6666. Prima ci siamo messi lì con Bonini e abbiamo deciso di tirare giù alcune pezzi del trattato di Campo Formio, che è un trattato napoleonico, giusto? Non dico stupidaggini. Perché il linguaggio fa sempre tutto, no? Sapete che non è tanto le cose che dite, ma è come le dite che fa la differenza. Il modo in cui veniva detto in quell'anno, esattamente il 17 ottobre del 1797, sembrano magnifiche. Trattato di pace definitivo, concluso tra la Repubblica Francese e l'imperatore d'Austria Francesco II, re di Ungheria di Boemia. Sua maestà l'imperatore dei Romani, re d'Ungheria di Boemia, la Repubblica Francese, volendo consolidare la pace, le cui basi furono poste con i preliminari sottoscritti nel castello di Eckenwald, hanno nominato loro ministri plenipotenziari. Sua maestà l'imperatore re, il signor Martis Mastrilli, e poi ancora cavaliere dell'ordine di San Gennaro, il signor Luigi, conte del Sacro Romano Impero, il signor Massimiliano, la signora Maria Teresa, il ciambellano maggior generale di cavalleria nelle armate della suddetta maestà. Andiamo all'articolo 1, che è più interessante. Articolo 1. Ci sarà in futuro e per sempre una pace solida ed inviolabile fra Sua Maestà l'Imperatore dei Romani, Re d'Ungheria di Boemia, i suoi eredi e successori e la Repubblica Francese. Le parti contraenti presteranno la massima attenzione fra essi e i loro stati. Ci sarà una perfetta intesa, senza permettere sin da ora in avanti che nessuna delle due parti commetta alcun tipo di ostilità, per terra o per mare. 800240024 349-238-6666. Non deve essere per forza un trattato di pace come quello di Campo Formio. C'ero, ce l'avevo scritto. Ma bastano cose tipo questa. Francesca, è difficile che io litighi furiosamente con qualcuno, ma quando capita, dopo che mi passi l'incavolatura, faccio finta di niente. Ricomincio a parlare come se nulla fosse. Peccato che sono sempre io a ricucire e nessuno poi mi chieda scusa. E qui c'è subito un pochettino di stizza, giusto? Io con mio marito le poche volte in cui litighiamo, perché più che litigare discutiamo, aspetto un po', poi con gli occhi dolci e la faccia imbronciata gli dico: pace? Ecco, questa no. Questa, come dire, la sappiamo, no? Questo è il modo più facile. Quindi parliamo di trattati di pace veri e propri con persone che magari non sono così vicini come il vostro compagno o vostro marito, e vi siete inventati un modo per fare questa pace. Io con Samir il modo me lo sono inventato ed è pure andato a buon fine. La gente delle 7 del mattino è diversa da quella del resto del giorno. E dire che siamo sempre noi, siamo sempre le stesse persone che girano in giro. Eppure alle 7 del mattino noi siamo diversi. Non lo so, sarà che abbiamo tutta la giornata davanti, che chissà cosa ci riserva. No, direi che questa non può essere la ragione, visto che di norma le persone che si incontrano alle 7 del mattino in una città come Milano non è che siano proprio degli avventurieri o degli esploratori che vivono così alla giornata. Di solito hanno un lavoro regolare, hanno degli orari regolari, una vita regolare, insomma. Forse quindi non è per la giornata che li aspetta, forse è per la notte che è appena passata. Sì, deve essere quello. Perché alla fine che uno vada a letto alle 9 dopo il TG o che uno ci vada alle 4 dopo la discoteca, in fondo ogni notte sembra sempre diversa da un'altra. È strano a pensarci, però le giornate in fondo si somigliano tra loro molto più delle notti. Ci sono le notti in cui vai a letto tardi, oppure in cui ti addormenti sul divano, quelle che soffri di insonnia, quelle che ti alzi per bere litri d'acqua. Delle volte di notte finisci un libro che non riesci a smettere di leggere, e quando l'hai finito ti spiace perché non ce n'è più. Certe notti invece le passi in macchina, a parlare con un amico sotto casa. E ok, mi fermo altrimenti mi trasformo in Luciano Ligabue. Però, insomma, quello che voglio dire è che l'altra sera, dopo il calcetto, sono andato a letto e non mi sono addormentato. Non per via del calcetto, ovviamente, e non saprei nemmeno trovare un unico motivo per cui non mi sono addormentato subito e poi mi sono svegliato molto presto stamattina. Insomma, mi sono messo a fare 4 calcoli su quello che era successo in questi giorni. E quello che era successo è che, oltre alla quotidianità, stavo ospitando in casa un ragazzo tunisino. Un ragazzo tunisino che gioca benissimo a pallone, ma che non ha un lavoro e soprattutto non ha i documenti. È un ragazzo che vuole conquistare il mondo, ma che in realtà è come braccato. E stamattina quando mi sono alzato erano le 6:30. Allora sono andato in cucina per fare colazione, ma lui dormiva. Era rannicchiato con il cuscino stretto tra le gambe. Quindi sono uscito, per paura di svegliarlo. Era stata una notte particolare, come in fondo sono quasi tutte le notti. Perché Sì, alla fine le notti sono quasi più movimentate dei giorni. Ecco perché. È per questo che alle 7 del mattino la gente è diversa da quella che si incontra nel resto del giorno. Ci sono persone che la mattina riescono a fare un sacco di cose e la mattina se la godono proprio. Ad un semaforo, ad esempio, stamattina c'era un tizio sul marciapiede con in mano il giornale. Stava chiacchierando con una signora, roba che c'è gente che ucciderebbe se li mettessi a fare conversazione sul marciapiede la mattina presto. Ecco, quel signore, ad esempio, chissà se di sera è diverso o è sempre un simpatico rompipalle. Ho parcheggiato la Vespa davanti a un bar in piazza 24 Maggio e sono entrato. E nonostante fosse mattina presto e stessi per fare colazione, mi sentivo in colpa. No, alla fine non sono mai stato bravo a litigare. E credo sia per via del testosterone. Sì, perché ho letto da qualche parte, o forse l'ho sentito dire a Nicoletta Carbone, che il testosterone è l'ormone che causa l'aggressività maschile. Poi però ho anche letto da qualche parte che non è vero niente, quindi come al solito tutto può essere il contrario di tutto. Ma tant'è, che sia o meno il testosterone a causare l'aggressività, io sono sempre appartenuto alla categoria incapaci di litigare. Non sono mai stato bravo a litigare, nemmeno a fare pace. E deve essere per quello, deve essere che ha a che fare con il coraggio, perché bisogna avere coraggio, no? Per stare di fronte a un tizio a cui stai dicendo una serie di cose cattive, irrispettose, magari pure vigliacche. E bisogna averne forse di più poi per chiedere scusa. Ieri sera avevo litigato con Samir e oggi non sapevo come comportarmi. Poi ho fatto una colazione ottima e ho pensato che quello poteva essere un buon modo per riappacificarmi con lui. Quindi sono tornato a casa. Lui stava ancora dormendo. Ho aperto le persiane e ho fatto entrare un po' di luce. Si è svegliato, gli ho detto che volevo portarlo fuori, per colazione. Lui ha fatto la faccia felice, la faccia stupita, quella che fanno i malati quando gli dicono che è tutto a posto e possono tornare a casa. Il fatto che la stessa persona che voleva tenerlo segregato in casa gli stesse dicendo che saremmo usciti insieme per andare a fare colazione deve avergli fatto uno strano effetto. Siamo saliti in Vespa e abbiamo risalito il naviglio verso piazza 24 Maggio. Stefano, il cameriere del bar, mi ha visto rientrare. Mi ha chiesto se stamattina avessi bisogno di due colazioni. Noi ci siamo seduti. Ho ordinato due spremute d'arancia, due cappuccini, due toast e due brioche con la marmellata di frutti di bosco. In quel bar le brioche hanno il burro salato e sono così soffici che non hai quasi bisogno di masticarle. Samir era allegro. Era divertito. Mi ha detto che non c'era niente come fare una cosa normale per farlo sentire felice. Alla fine si è mangiato due toast e tre brioche. Io in radio ci potevo venire verso l'ora di pranzo, quindi ho pensato che era il momento giusto per tornare a casa, ma per fare qualcosa che lui volesse fare. Gli ho detto che avevo la mattina libera e che se voleva andavamo a farci un giro. Gli ho chiesto se c'era un posto in città che lui volesse vedere e lui non ha esitato un secondo. Mi ha guardato e mi ha detto: certo che c'è. È lo stadio di San Siro. Siamo arrivati al museo di San Siro e ho preso due biglietti. Il museo dello stadio Meazza è il museo più visitato della città. Ci sono reperti di un po' tutte le cose che riguardano l'Inter, il Milan e grandi avvenimenti che si sono svolti in questo stadio, compreso la prima partita d'Italia 90 e la finale di Champions di qualche anno fa. La cosa che volevo mostrare a Samir però non era il museo, era lo stadio. In teoria non si potrebbe entrare, però ho convinto il signore che stava alla cassa a farci entrare due minuti a dare un occhio al campo. Lui mi ha chiesto se fossi interista o milanista e Samir ha risposto per me dicendo che lui era da sempre rossonero. Il signore ha sorriso e ha detto: ok, allora potete entrare. Due minuti però, non di più. San Siro ogni volta che ci vado mi fa sempre l'effetto della prima volta, anche se è deserto, anche se non c'è nessuno. mi ricorda la prima partita che ci vidi. Un derby, ovviamente. Samir aveva gli occhi sgranati, si guardava in giro come a cercare di immaginare una partita. I giocatori in campo, il pubblico. E allora gli ho raccontato proprio di quella volta, del mio primo ingresso a San Siro. Con il rumore impressionante che fa la gente, che sembra quello di un'aspirina che si scioglie in un bicchiere però moltiplicato per milioni di bicchieri. In campo c'erano i giocatori che si stavano scaldando e l'aria che respiravi sembrava spessa. Era la prima volta che vedevo tanta gente tutta insieme. L'unica cosa immobile era il rettangolo verde che brillava in mezzo alle tribune stracolme. Tutto il resto si muoveva. Mi sono domandato come le gradinate potessero reggere il peso di tutta quella gente. Lo stadio era una massa indistinta che respirava. E quando entri in uno stadio con 80.000 persone, ti sembra di respirare tutti insieme, al loro ritmo. Ecco, Samir a quel punto mi ha chiesto se prima o poi l'avrei mai portato allo stadio. E io gliel'ho promesso. E lì ho capito che mi aveva perdonato. Rete! Rete degli azzurri! Con Cabrini! Rossi! Rossi! Rossi! Rossi ha portato in vantaggio l'Italia! 800 24 00 24, 349 238 6666. Stefano, forse il modo migliore per fare pace è far finta di non aver litigato. Forse no, forse è il modo migliore per tornarci su la volta dopo. Marco mi scrive: non è bello dire di avere poco testosterone? Davvero non è bello? Boh, devo chiedere a Nicoletta Carbone, scusate, lei la consulente. Noi ci chiediamo scusa a percentuale a seconda della quantità di colpa di ognuno. Io mi scuso per esempio l'80%, ma il 20% di colpa ce l'ha anche lui, Oriana. Sì, adesso però non facciamolo diventare il forum delle coppie, tipo che mettiamo sul bilancino chi ha più colpa e chi no. Giulio, non parlavo da giorni con Martina. In una notte un attacco di allergia lei mi salvò la vita. Non abbiamo parlato del litigio perché era passato. Martina è la mia migliore amica e io il suo. Giulio, va bene, non ho capito bene, cioè avevano litigato, lei ti ha salvato la vita. Credo che sia andata così. Questa è magnifica però. Paolo, io ho inventato la grigliata del condominio, che essendo ricorrente è anche un'efficacia preventiva in previsione delle litigate successive. 800 24 00 24, 349 238 6666. Oggi mi è arrivato questo messaggio sul profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia, io sono qui. Avevo 19 anni, già fidanzato e tutto proiettato sul mio futuro. Marco, il mio migliore amico di sempre, che si chiama Marco pure lui, era single per vocazione, quindi ogni sera si usciva, birre, concerti, eccetera, eccetera. Per anni abbiamo fatto tutto insieme, finché una sera, dopo varie volte che gli dicevo di no, gli ho detto: senti Marco, ho da fare, sai, l'università, dai, ci sentiamo. Quando ho messo giù, ho capito che quella sarebbe stata l'ultima telefonata. Ma la parte più interessante del messaggio dice: dopo 10 anni, una sera, ho mandato giù mezzo litro di vino, ho trattenuto il respiro e ho fatto il numero. Pronto Marco, ciao, sono io. Ti va stasera una birra? Pronto Marco? Eccomi. Ciao, come stai? Bene, grazie. Grazie per essere qui. Senti, mi spieghi perché hai dovuto ingurgitare mezzo litro di vino? Per prendere coraggio? Sì, perché Marco è sempre stata una persona particolarmente difficile da... Un ubriacone, per cui per parlare con lui bisognava bere mezzo litro di vino. E quindi per farmi coraggio, poi negli anni, no, insomma, mi sono sempre fatto tante domande, sarà il caso, magari mi attacca al telefono, mi manda a quel paese. E quindi per sciogliermi un po' ho pensato bene di buttare un po' di vino. Senti, com'è andata a finire poi quella volta? Niente, adesso, quella volta è andata liscissima, nel senso sembrava come se ci fossimo sentiti la sera prima, quindi siamo usciti quella stessa sera e adesso siamo di nuovo amici per la pelle. Ma e lui è sempre single, beve ed esce tutte, cioè beve, adesso non voglio farlo passare per un ubriacone sto poveraccio, però cioè fa sempre quella vita forsennata. Lui single beve un po' meno perché adesso diventa un po' più serio, però fa sempre quella vita lì. Sì. Senti, e poi ti lascio andare Marco, quanta parte di colpa c'è da parte di tua moglie nel fatto che tu e Marco vi vedete di meno? All'epoca, beh, una buona parte era probabilmente riconducibile a lei. Oggi invece no, oggi siamo tutti più grandi, siamo tutti più maturi, quindi... Quanti anni c'hai Marco, scusami? 35. Ah, beh, certo, siamo tutti più grandi e più maturi. Che cosa fai nella vita, Marco? Il commercialista. Oh, non consulente. Beh, c'è chi mi definisce consulente, c'è chi non... Certo, non, ma alla fine, Marco, c'è una parte di consulente in ognuno di noi. Appunto, si diventa sempre consulente in tutto. Marco, salutami Marco e tua moglie, grazie mille, buona giornata. Ciao. Ciao, alla prossima. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto di oggi invece siamo in montagna, sulla neve, in un paesaggio splendido, super innevato, con un rifugio sul fondo e il cielo azzurrissimo. In primo piano però ci sono tre energumeni con vestiti da ciclisti, con tre mountain bike che però hanno qualcosa di particolare perché hanno tipo dei cingolati sulla ruota posteriore. Tre energumeni simpatici, ovviamente, nel senso buono del termine, con questi pantaloni da ciclista inguardabili, una maglietta, devo dire anche questa, piuttosto brutta, ma nel senso che l'abbigliamento sportivo non è mai tecnico, non è mai eccessivamente bello, e guardano dritti in camera orgogliosissimi. Non capisco se l'hanno fatta sta salita con queste biciclette cingolate a salire o a scendere. Davide Baroni, 33 anni, sopra i piani di Artavaggio in direzione Casa Rifugio Cassaniga Merlini, il 17 gennaio 2010, insieme ai miei soci, le nostre bici con i K-Track sulla neve, poco prima di pranzo e della discesa. Quella volta ci siamo divertiti un sacco, anche se siamo rientrati alle auto completamente al buio e senza luci. Io sono qui. Bravo Davide, chiaramente Davide tu mi hai capito, no? Nel senso che siamo tutti degli energumeni, soprattutto in montagna, vestiti da ciclisti, mountain bikers, piani di Artavaggio che sono chiaramente in Veneto, no? Cioè, è ovvio che l'ho sparata. 349-238-6666, se qualcuno sa dov'è il rifugio Cazzaniga Merlini, sui piani di Artavaggio, me lo dice a questo numero. Allora, innanzitutto ho chiesto a Nicoletta Carbone che non è vero che è brutto dire che sia poco testosterone, anzi, lei mi ha detto anche le donne hanno il testosterone, però me l'ha buttata lì in redazione proprio al volo prima di rientrare. Poi Diego mi scrive: hai fatto a Samir una promessa che potrai mantenere solo quando lui avrà i documenti, punto, tessera del tifoso, mi scrive, giusto per essere preciso. 800240024, mi è arrivato questo messaggio su Facebook. Oltre 10 anni fa, litigio pesante al telefono, prendo la macchina alle 10 di sera e faccio 120 km. Nel frattempo la chiamo, sto zitto e metto il telefono vicino alle casse dell'autoradio che sparavano a tutto volume tutti i miei sbagli. Gabriele, ma sei veramente un tamarro? Abbastanza. Nel senso che sei a metà tra un romanticone, un tamarrone e quantomeno uno didascalico, nel senso che per chiederle scusa le fai sentire Subsonica. Ma c'era un motivo, nel senso che erano 10 anni fa, è il momento in cui Subsonica sono esplosi. Lei era a Torino, quindi si vedevano diversi concerti di Subsonica, quindi era didascalica. Tra l'altro, Gabriele, tu appartieni alla categoria che Subsonica sì, ma i primi, poi dopo quello nuovo è meglio, dai. Quello nuovo è meglio. Senti, tu di dove sei, Gabriele? Sono di Casale Monferrato, vicino Alessandria. E ci sono 120 chilometri, scusami, tra Casale più o e meno, Torino. Più o meno sì. Ma di strada, beh scusa, ma non vai verso Alessandria? No, normale, no, io me la facevo bella la tu te la facevi secca proprio? Ah, ok. Senti, e che fine ha fatto quella ragazza? Adesso convive con un'altra persona a Torino. No, che brutta storia, guarda, avrei dovuto non chiedertelo, perché adesso so che mi deprimo. Ma tu ti sei, tu però sei una persona serena e con una compagna? No. Ho avuto una compagna dopo, sì. Ed è già finita pure. Non ne sto imbroccando una, Gabriele. Dimmi però che sei felice lo stesso. Sono sereno, sì. Sei sereno, ma la definizione è splendida. Che cosa fai nella vita? Lavoro per una scuola di pallacanestro professionistica a Biella, che motivo per cui mi sono trasferito da Casale. Cioè il Biella? L'Angelico Biella, esatto. Ah, ok, che sta in Serie A. A1 proprio? Sì, A1. E che cosa fai, scusami? Allora, la definizione esatta sarebbe il team manager, che è difficile da spiegare, ma sostanzialmente faccio lo zio dei giocatori e della squadra. Senti, ma quindi tu sei un ascoltatore di Carlo Genta, di Pallaspicchi? Conosco sommariamente Carlo Genta, domani viene il nostro amministratore delegato in trasmissione. Bah, benissimo, tutto in casa. Guarda, non gli racconterò, se lo incrocerò, che non hai uno straccio di fidanzata e che soprattutto non sei riuscito, quindi, lo sa, a tenerti stretta quella là. Gabriele, però grazie lo stesso. Grazie a te. Buona giornata, ciao, grazie. Dov'è quello, un messaggio che non era male? Eccolo qua. Dopo un anno e mezzo che ci frequentavamo e passavamo tutti i weekend da lui, o quasi, io gli chiedo, perché non mi fai una copia delle chiavi di casa? Lui sbianca, mi dice un no secco, litighiamo, gli dico che se la sua fiducia in me è tanto scarsa, per me la storia è finita. Mazza, oh, per un mazzo di chiavi. E per una settimana lui mi cerca, non gli rispondo, non mi faccio trovare, alla fine mi placca fuori dal lavoro, si scusa, dice di essere stato un cretino e alla fine mi mette un mazzo di chiavi in mano, perdonato, e l'anno prossimo ci sposiamo. Grace, aspetta a dirlo, che manca ancora un anno. Andiamo da Ivan da Milano, pronto Ivan? Ciao Matteo. Ciao, senti, tu hai fatto, forse sei il record del mondo nella puntata di oggi. No, non è vero. Nella puntata di oggi, Ivan, sì. Racconta che cosa hai fatto per chiedere scusa alla tua fidanzata. Allora, piccola premessa, io faccio il DJ in discoteca come lavoro. Quali discoteche? Adesso posso dire il nome? Ma certo. Allo Zalatino. Senti, ma perché ascolti? Però non faccio latino, faccio discoteca e due sale. Ma perché ascolti Radio 24? Perché mi piace, e potrei essere bravissimo. Va bene, ti ringrazio Ivan. Senti, raccontami che cosa hai fatto per... In quel periodo ero fidanzato da parecchi anni con questa ragazza che, vabbè, era gelosissima. E io, nel senso, io facevo il bravo, però nel senso è capitato che una volta, diciamo, io ho mancato di rispetto, cerco di farla breve, e in pratica abbiamo fatto una litigata furiosa, io per farmi perdonare mi sono fatto l'iniziale del suo nome sul petto. Sì, vinci, il cuore. Vinci assolutamente, vinci assolutamente, anche rispetto in tamarraggine, anche rispetto a quello che mandavi Subsonica. Senti, però mi pare che ne stessi parlando al passato, quindi è finita sta storia. Sì, è finita. Quindi c'hai il tatuaggio. Comunque, nel senso, ci sentiamo ancora e ne approfitto che gli voglio ancora tanto bene. Benissimo, anch'io. cioè, non a lei, però a chi sta ascoltando. Fammi capire, però, tu hai comunque l'iniziale di questa sul petto. Sì, però anche lei c'ha un tatuaggio su me, che si è fatto un tatuaggio che riguarda me, ecco. Ok, quindi siete pari, siete pari più o meno, Ivan. Sì, però lei l'ha fatto prima, io l'ho fatto per rimediare, ecco. Va bene, Ivan, senti, ti ringrazio molto. Fammi sapere se te ne fai un altro. Buona giornata. Ciao, grazie. Quella dei tatuaggi è un rischio orribile. C'è un amico che ha lo stesso tatuaggio della sua ex sulla schiena, e giusto che ce l'ha sulla schiena, perché ogni volta che se lo vede nello specchio sta male. Andiamo da Roberto da Modena. Pronto, Roberto? Ciao Matteo. Ciao. Senti, ciao. Tu hai rischiato di fare un incidente in macchina. Sì. Di sì, fatto sì. Non l'hai fatto, però. No, ero a Livorno, sai, è il primo giorno che circolavo per Livorno, e a Livorno c'è una piazza particolare dove tu sei sulla strada principale ma devi dare la precedenza a tutte le altre stradine. Sì. Quindi io non lo sapevo, ho rischiato di fare un incidente alle 7:30 di mattina proprio. E com'è finita però? Era livornese il malcapitato? Erano due livornesi e io ero... Forse, come dicevi tu, avevo un po' troppo testosterone, litigavo spesso. Okay. Però quella mattina in particolare, io, siccome mi hanno stretto con la macchina su e volevano litigare o discutere, ecco. Ah. Io sono sceso dalla macchina e in un attimo di secondo li ho affrontati dicendo loro, io gli ho chiesto scusa, gli ho detto non è meglio invece di litigare che andiamo in questo bar di fianco a prendere un caffè. Siamo diventati amici così, perché io avevo un locale e loro hanno cominciato a venire nel mio locale proprio. Ma a Livorno sempre? Sì, a Livorno, a Livorno. Però tu sei di Modena, Roberto? Sì, io sono di Modena. E come ci sei finito a Livorno, per amore? Mi chiamarono per gestire un locale particolare, un po' okay. difficile, e io presi e andai. E questa fu una delle prime cose particolari che mi capitò e mi è rimasta impressa. Non mi sembra veramente niente male, anche se non bevo il caffè, però invece che litigare, andiamo a prenderci un caffè. Sì, ma il fatto è che loro scesero e avevano scritto in faccia che volevano litigare. Certo. Io in genere accettavo perché avevo troppo testosterone. Okay. Però non so cosa è scattato dentro di me. Io l'ho proprio affrontato. Adesso l'hai consumato tutto sto testosterone. Invece di litigare alle 7:30 alla mattina che ci roviniamo la giornata, perché non andiamo lì e prendiamo un caffè insieme? Roberto, ti ringrazio molto. Buona giornata. Prego, ciao, grazie. Ciao. Allora, una comunicazione di servizio. I piani di Artaveggio sono in Artavaggio. Sono in provincia di Lecco. E adesso chiudiamo con una cosa che non c'entra con il tema di oggi, però ha a che fare con la narrazione, con l'autobiografia come terapia. Il ruolo liberatorio della letteratura è stato sottolineato da Walter Benjamin, che ha visto nelle fiabe una delle prime precauzioni prese dall'uomo per dissipare l'incubo mitico. Ogni scrittura affronta il vuoto del futuro, affrancandosi dal passato. Non si può chiedere a tutti di inventare dei racconti, qualcuno dirà, ma si sbaglia. Noi passiamo il nostro tempo a raccontarci delle storie di cui noi siamo gli eroi. O più esattamente, passiamo tutto il nostro tempo a inventare il racconto della nostra vita, per sottoporne in tempo reale i diversi episodi all'apprezzamento e ai commenti di alcuni amici, parenti, compagni o collaboratori occasionali. Narrare la propria vita non è sfuggire alla solitudine, ma all'isolamento. È una terapia spontanea, sensibile al passaggio del tempo, che sdoppia e proietta verso il futuro nel raccontarlo. Non ci si salva da niente e da nessuno senza la presenza degli altri, sotto qualsiasi forma, presenza effettiva di interlocutori, presenza scontata di futuri lettori, ma che dà già tutto il suo senso all'attesa di colui che scrive. Sono le 16:45 minuti, finisce qui la puntata di oggi. Vi ricordo che la cosa che ho letto prima è una cosa scritta da Marco Gé, che è un antropologo tra i più famosi, tra i... chiaramente queste cose non le so, me le racconta tutte Tiziano Bonini, quindi ringrazio lui, ringrazio Fabio Rudi Candadori, Viola Bottoni e Stefano D'Andrea. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?